Pronto. No, tesoro, siento. Me era caduta la linea. No, no, no, no, aspettavo che mi richiamassi. Certo. Ma sei sicuro? Hai sonno. Sei stata buona a richiamare? Tanto buona. No, sono qui. Stupidi. Nessuna storia, per quanto grande, resiste alla sincerità. Deve essere così. Forse sta venendo qui senza avvisare. Forse in questo momento è per strada. O forse gli è successo qualcosa. No, a lui non succede mai niente di male. Non riesco a immaginarmelo. Non riesco a pensare che abbia avuto un incidente. Non riesco proprio a figurarmelo investito da una macchina. Steso lungo per terra, immobile, morto. E magari fosse morto, anche se orribile, è un desiderio piacevole. Da morto sarebbe sicuramente mio. E io non penserei più né a oggi né a queste ultime settimane. Ricorderei soltanto i bei tempi. E poi saprei sempre dove che sta. Vorrei che fosse morto. Stupidaggini. È ridicolo augurare la morte a qualcuno soltanto perché non ti telefona all'ora esatta in cui ha detto che l'avrebbe fatto. Forse l'orologio va avanti. Non so mica se va bene. Magari lui non è nemmeno in ritardo. O forse di poco a poco. Qualcosa può averlo trattenuto in ufficio. Può darsi che sia andato a casa con l'intenzione di chiamarmi da lì e qualcuno è andato a trovarlo. E io lo so che non ti piace parlarmi a telefono in presenza di altri. Chissà se anche un poco poco gli dispiace di farmi aspettare. Forse spera che lo chiami io. Potrei farlo, potrei chiamarlo io. No, non lo chiamerò! Non gli telefonerò più finché vivrò! Marcerà all'inferno prima che lo chiami io! E buon Dio, non incombermi coraggio proprio adesso, non è assolutamente il caso! Ne ho già abbastanza da lui. Se lui mi vuole, può avermi. Sa dove sono. Sa che sono qui ad aspettare? È così sicuro di me, così sicuro. Mi chiedo perché mai si odino una volta che sono sicuri di te. Pronto? Sì, parla di qualunque cosa. Vigliacco, ma no, vigliacca sono io, mi ero giurata di non darti inquietudini. Tu, ma no, tu che non mi hai dato altro che felicità. Ma amore, te lo ripeto, non è giusto, ma se sapevo, aspettavo quello che è successo. Mentre tante donne si illudono di passare l'esistenza accanto all'uomo che amano e poi vengono a sapere della rottura senza essere preparate. Io sapevo. Anzi, non te l'ho mai detto, ma dall'estetista su una rivista di moda ho visto la sua fotografia. Ma sul tavolo, spalancata la pagina giusta. È umano. O meglio, femminile. Perché non volevo sciupare le nostre ultime settimane. Beh, naturalissimo, ma non farmi migliore di quello che sono. Pronto, sento della musica. Dico, sento della musica. Beh, dovresti picchiare la parete e impedire ai tuoi vicini di suonare lo stegatore simili. Hanno preso delle brutte abitudini perché tu non sei mai in casa. È inutile. Delle distrazioni. Adesso ti confesserò una cosa non troppo poetica, però vera. Da quella famosa domenica sera mi sono distratta soltanto una volta. Dal dentista, quando mi ha toccato un nervo. Sola. Sola. Dio, tieni lontana da quel telefono. Lasciami almeno un briciolo di orgoglio. Penso proprio di averne bisogno, Dio. Non credo che mi resterà nient'altro. Ma che mi serve l'orgoglio se non posso stare senza parlare con lui? Un orgoglio del genere è una cosa stupida, inutile. L'orgoglio vero, quello eroico, è non averne per niente. E non lo sto dicendo, Dio, soltanto perché vorrei telefonarvi. No, lo sto dicendo perché questa è una profonda verità. E io voglio essere grande, Dio. Voglio essere magnifica, voglio essere eroica. Io sarò al di sopra di questi stupidi, stupidi, meschini orgogli. Devo essere io ad avere frainteso. Forse ha detto a me di chiamarlo alle 5. Chiamami alle 5, cara. Può benissimo avere detto così. Dio, Dio, perché mi fai delirare? Dimmi che cosa devo fare. Ti prego, illuminami. Illuminami. Devo pensare ad altro. Sì, adesso mi siedo qui, buona.